Aleus plat splendis telutis, dal mio sangue stat bagnato. O non saliva forse dal sacrario di Timau, da fondo valle in cui sono sepolti tanti caduti per la patria? Io sono stato a Piano d'Arta. Un giorno salii sino a Cabbia. Avevo gli scarpetti e correvo lungo i sentieri. Una donna col dei mi offrì le susine con le quali si distilla lo slivovi, una specialità di Cabbia. Come sono forti le donne della carne! Dicono si squei sfadia si squei. Che cosa vuol dire si squei? Chi si deve lavorare, ma loro non è lavoro, è fatica sovrumana. Al ritorno da Piano d'Arta costeggiai per un tratto il Tagliamento. Ero col babbo che conosce il Friuli sasso per sasso. Era alpino, ama tanto la sua terra. Ma tutti dobbiamo amarla. Il babbo mi additava la rocca di Osoppo e vari castelli sulle colline. Ogni castello ha la sua storia. Vorrei visitare quello di Colorito di Montalbano. L'ho vista soltanto in cartolina. C'è la torre, la meridiana, le mura coperte d'edera. Vi abitò Ippolito Nievo, poeta garibaldino, tragicamente naufragato nel Tirreno, non ancora trentenne. Tra quelle mura scrisse la vigilia dell'impresa dei mille, il più bel romanzo italiano dopo che lui si sposi. Noi ne abbiamo letto a scuola qualche squarcio. Le confessioni di un ottuagenario. E proprio nelle prime pagine si incontra la più bella definizione del Friuli. La ricordate? Il Friuli è un piccolo compendio dell'universo, alpestre, piano e lagunoso in 60 miglia da tramontana a mezzodì. La sua memoria. Non si poteva darne una definizione migliore. È bastato un accenno alla Carnia per scoprire una Ciarnia Lute. O venda la chiarnie ed entri la cosse, o ai cocolis, nolis, fasui e milot, o ai arbe petiavre, palmusse pepiore, e quanca le chialt lis freulis pai frutz. Scoltait une chiampane su ne pevile, e chiamtene frutte viasint un balcon, e sta sulla quarte la none che file, ed ogni al basilic sfloris un sclopon. Tai pras lis dialinis contentis becolin, tai clas par calcianti curint un ruioz, o venda la ciarnie ed entri la cosse, o ai coculis nolis pai granchi e pai frutz. Carnico di Rigolato, dove gli è stato eretto persino un monumento, è Enrico Fruc, che fu direttore della scuola Dante Alighieri. Sua questa poesia ricca di colore, una serie di istantanee colte dal vero. I frutz di Catine di Enrico Fruc. Catine anda quattro tra fruttis e frutti. Musuti starondis che parin milut. Duc facin tumut, campions di salut. La prime ie file, tan brave di lei. Po venin e zimuin castanin tunzei. Po l'ultime une che ciantin tescune. I zimui son sempre che trotin di scol. Che su pincianusis par giol di Keldoz, che ta in lis bacchetis par falis unetis. Tan pers quanche gusti in doi tunciadin, e che si spartissi quel toc di cicim a miegi scoltui, cal vivi anche lui. La sere che monzin che il bon cu la sbrumule e pronte che fume, c'è c'è ne cul già, pulente tallat. Son sempre che viaggi in par champs e par trois, che van su paiargui e passin gli rois. Che sbrissin, che colin, e il ciafsi macolin. Son sempre che ciapin becadis di urtis, oppur che si smaltin il cotul di fis, che tornin te corpo e puarte da lor. E file, veniso da spoca si clame, se ho sciatin i zingar, se ho scuca la mame, e ho sberle, e ho insegne, e un po' si inveleie. Potà che la nonne, demonis che sei, te c'hai di... con muse di ridi, la lasin che cridi. E fuin a platassis de stali dal che pense, son fur dal patus, gliela che io spiete con nene che tete. Attenti ragazzi, un treno in partenza. È un canto nostalgico del Risorgimento. Dopo l'omaggio a Mameli, l'omaggio a Pisacane e ai suoi prodi. La spigolatrice di Sapri. Erano 300, erano giovani e forti e sono morti. Me ne andavo un mattino a spigolare quando ho visto una barca in mezzo al mare. Era una barca che andava a vapore e alzava una bandiera tricolore. All'isola di Ponza si è fermata, è stata un poco. Poi si è ritornata ed è scesa a terra. Scesir con l'armi e a noi non fecer guerra. Eran 300, eran giovani e forti e sono morti. Nel cielo del Friuli passa l'ora della malinconia. Il sabato sera, quando le campane si rimandano l'annunzio della festa imminente. Ma la pace non è entrata nei cuori che attendono, col cessar della guerra, il ritorno dei cari lontani. In chiusa una sorpresa. Il microfono di Friuli nel mondo si trasferisce infine in una scuola di adulti, una delle tante che per iniziativa dell'ente accolgono i corsi di lingue estere destinati alle persone desiderose di espatriare. 4 mesi di lezioni pratiche, un successo di frequenza e di profitto. Lo conferma il ringraziamento rivolto da un allieve in inglese alle autorità intervenute alla chiusura del corso di Tarcento. I want to give my thanks to the Ente Friuli nel Mondo for it gave us the opportunity to learn a new language that I think will be very useful for those who must go abroad and earn one's living. I think the Ente Friuli nel Mondo is the wide, open hearth across which our immigrants can keep alive the great love among our little fatherland. We are very satisfied and sure to have the possibility to understand and make ourselves understand by the language that we have learned. Calvignaressa stai. O ringrazi l'ente Friuli nel mondo per venus date il miez di imparar la svelte l'inglese che al sarà un evore util parché che la rampa al mondo. O sin un evore soddisfaz e se ho sarin costrezza partì, o la rinculcur più il leggero, perché ho sin sicur scopo da rincapì e farsi capì. E com'ho? Une bussade a dotti furlans pal mondo. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo. Messaggio della scuola ai lontani. 22esima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo di Chino Ermacora. Musiche di Luigi Garzoni di Adorniano. Musiche popolari. Hanno partecipato alla trasmissione alunni e alunne delle scuole Dante Alighieri, 4 novembre, e Pietro Zorutti di Udine.